Che se io fossi Bruto, e Bruto Antonio, qui ora ci sarebbe un Antonio che squasserebbe i vostri spiriti. Mi stupisco di parlare per incantarvi, mentre vorrei liberarvi per confondervi. Mentre che l'uno spirito questo disse, l'altro piangeva. Letture di Radio 24. Homer e Langley Collier erano due fratelli americani che nella loro casa avevano accumulato una immensa quantità di oggetti di ogni genere, al punto che un comportamento di questo tipo viene oggi chiamato sindrome di Collier. Alla loro storia si ispira l'ultimo romanzo di Doctorow, che trasforma un fatto di cronaca in una parabola di spiritualità, come scrive il professor Luigi Sanpietro in un commento pubblicato nell'inserto culturale Domenica, in edicola oggi, assieme al Sole 24 Ore. Roba che neanche i topi, con rispetto parlando. Ho letto da qualche parte che quelli di campagna, non i ratti underground delle metropoli, ammucchiano le provviste per l'inverno nei loro cunicoli in quantità sempre di molto superiori al prevedibile fabbisogno. Sono, in altre parole, incettatori maniacali, un po' come i collezionisti per hobby, o meglio, e qui la lingua batte dove il dente duole, come quei colleghi che con la scusa della professione accumulano infiniti più dischi o libri di quanti potrebbero mai ascoltare o leggere. C'è poi l'ammasso indiscriminato di oggetti e chi se ne intende la chiama disposofobia o paura di sbarazzarsi di alcunché. In America è nota anche come Collier Brothers Syndrome. Due fratelli, Homer e Langley, trovati morti dalla polizia il 21 marzo 1947 nella loro casa di Manhattan, proprio di fronte a Central Park. I giornali avevano parlato più volte della strana coppia. Da anni nessun altro era entrato nell'abitazione. La porta d'ingresso era bloccata e alle finestre del primo piano erano state inchiodate delle assi. Luce, gas e telefono erano stati tagliati. La banca alla quale i Collier avevano a un certo punto smesso di pagare il mutuo aveva tentato di adire le vie legali, ma un giorno aveva ricevuto un assegno che liquidava l'intero ammontare del debito e da quel momento i due eccentrici fratelli non furono più importunati. Il più vecchio, nato nel 1881, si chiamava Homer. Era un musicista. Nel corso degli anni era diventato cieco e poi completamente sordo. Delle faccende domestiche, dopo la scomparsa dei vari componenti il personale di servizio, aveva finito per occuparsi Langley. Nato nel 1886, aveva combattuto in Europa ed era tornato con i polmoni danneggiati dai gas tossici. Amareggiato e pieno di rancore, aveva progressivamente rotto i rapporti col mondo, ma a suo modo si era portato il mondo in casa, per evidentemente rendersi indipendente. Aveva raccolto e ammassato di tutto, tutta roba che sarebbe potuta servire. Un'automobile modello T-Ford, che aveva smontato pezzo per pezzo e rimontato in sala da pranzo, 14 pianoforti, decine di carrozzine per bambini, grammofoni, macchine per scrivere, scatole di soldatini di piombo, giocattoli, giunti e tubi idraulici, frigoriferi, cassette di bottiglie del latte, reti e testate di letti, ombrelli rotti, sedie a sdraio, gomme di automobile, cataste di scandole per il tetto, barilotti e fusti per la birra, valigie e bauli, sci di legno, fioriere, anfore, pendole e orologi a muro, lampade nautiche, lampade da campeggio e torce elettriche, pentole a pressione, scarponi, elmetti e cartucce, borracce e gavette, pantaloni grigio-verdi e giubbe militari, tenute di fatica e coperte di lana, coltelli tascabili, binocoli, manichini da sartoria e libri, libri, libri, ma soprattutto giornali. Che Homer, secondo Langley, avrebbe potuto leggere quando avesse riacquistato la vista e che occupavano stanze, scale e corridoi fino a renderli impraticabili. In totale, più di 100 tonnellate di ogni ben di Dio, il cui sgombero richiese 2 settimane di lavoro. In un angolo estremo dell'abitazione, vicino a un gabinetto ancora in uso e al quale era possibile accedere attraverso un cunicolo disseminato di trappole, la polizia, calandosi dal secondo piano, trovò il corpo di Homer, morto di inedia. Più in là, quello di Langley, rimasto vittima di uno dei trabocchetti che lui stesso aveva predisposto contro eventuali invasori. Su questa storia triste e mirabolante, dalla quale sono state ricavate 2 pièce teatrali, un musical, un romanzo e una ricostruzione giornalistica, ha messo ora le mani da par suo uno scrittore di primo ordine come Doctorow. Il suo ultimo romanzo, Homer e Langley, è la trasfigurazione di un fatto di cronaca e di una vicenda orripilante e patologica in una parabola di superiore spiritualità. Perché un conto è l'aneddoto o la storia, la fabula, come la chiamano in narratologia, e un conto è il senso che quella storia stessa assume attraverso il modo in cui è raccontata. Doctorow ha spesso riscritto, nel corso della sua fortunata carriera, episodi o eventi del passato, ma è solo equivocando che può essere considerato un autore di romanzi storici. In Homer e Langley rimescola le carte, dilata la vicenda, si arriva fino ai giorni nostri attraverso la guerra in Vietnam e l'irruzione nella casa dei Collier di una squadra di hippie squinternati e padroni di sé e del proprio tempo, e fa del libro un memoriale scritto in Braille da Homer per una giornalista francese, Jacqueline Roux, la quale gli ha giurato di non essere interessata all'aspetto sensazionale della storia, bensì alla straordinaria esperienza interiore di chi, mentre la casa si riempie di oggetti, così come il mondo esterno, si trova costretto a perdere sempre più contatto con le cose e con le persone. Prima cieco e poi sordo, in entrambi i casi al termine di un lungo e consapevole crepuscolo dei sensi, Homer è il protagonista di un lungo viaggio verso il nulla, al termine della coscienza, dal quale ritorna scrivendo appunto la storia della propria vita. Adesso che ci pensavo, quei bambini che avevano preso a sassate la nostra casa, lungi dall'essere un episodio secondario rispetto alle nostre maggiori preoccupazioni, era il colpo più grave di tutti. Perché cosa poteva esserci di più terribile che venire trasformati in un aneddoto leggendario? Come avremmo fatto una volta morti e sepolti, senza nessuno disposto a riabilitare la nostra storia? Avete ascoltato la lettura di un commento del professor Luigi Sampietro al nuovo romanzo di Doctorow, dall'inserto Domenica, allegato al Sole 24 Ore in edicola oggi. Un segreto per invecchiare bene? Evitare la noia. Alla vigilia del suo 90° compleanno, Franca Valeri racconta le sue passioni e i suoi progetti futuri. Uffa, che barba con sta festa! Però, anche se lei fa la schiva, ormai ci siamo. Il 31 luglio Franca Valeri compie 90 anni. Nella sua casa d'estate a Trevignano, affacciata sul lago di Bracciano, aspetta che il sole diventi meno feroce per uscire in giardino, cercare una bava d'aria, nuotare un po'. I cani sono tutti qui e stanno bene. 5 più Roro IV, attuale principe regnante di una dinastia di Roro, i piccoli, vivaci e inglesi King Charles, nome scelto per rendere omaggio all'Aroldo. Non tra i capolavori di Giuseppe Verdi, ma opera da lei amatissima per diversi personali motivi. Martedì scorso, Franca Maria Norsa, nata a Milano, nome d'arte Valeri, in omaggio al poeta francese Paul Valéry, era in scena a Roma. Insieme a Patrizia Zappa Mulas ha interpretato Soldi, soldi, soldi, leggendo brani di Carlo Emilio Gadda e Alberto Arbasino. Poi, a gennaio, al Valle di Roma, debutterà Non tutto è risolto, una nuova commedia. Sarà autrice e interprete. La storia parla di lei. Squarci di vita di una vecchia signora che si attacca alle piccole cose. Il finale sarà tutto su una stufa. Come fare a trasportarla da una casa all'altra? Un problemone. L'esordio in teatro della Valeri risale al 42, nella compagnia dei Gobbi, dove lavorava anche Vittorio Caprioli, suo futuro marito. Soltanto a pensare agli anni e alle commedie, ai film, alle regie d'opera che da allora ha firmato, c'è da togliersi il cappello. Come sta Cesira, la signorina milanese snob? Benissimo, in gran forma. Lo snobismo ridicolo non muore mai. E la sora Cecioni, la popolana romana coi bigodini in testa sempre al telefono con mamma? Lei è tranquilla perché di mezze calze che si prendono sul serio e su cui ironizzare è piena l'Italia, Roma in particolare. Che cosa le dà più fastidio dell'Italia di oggi? Facciamo prima dire cosa non me ne dà. La maleducazione, l'arroganza e la stupidità sono arrivate a livelli insuperabili. Una cosa, una soltanto che le piace. I giovani. Forse c'è una percentuale che non per colpa sua, ma dei modelli che ha davanti, è diventata insopportabile. Ma la grande maggioranza è gradevole. Vale la pena provare in tutti i modi a farli crescere bene. Quale autore vorrebbe ancora portare in palcoscenico? Ho un desiderio profondo da attrice e da regista. Mettere in scena una commedia di Feydeau. L'albergo del libero scambio, Occupati d'Amelia. Sarto per signora, c'è l'imbarazzo della scelta. I suoi dialoghi sono la perfezione, mi hanno insegnato a scrivere. I suoi personaggi non sono pupazzi, il suo stile non è soltanto burlesco. merita di essere vendicato dalle sconcezze e dalle sciocchezze con cui cattive compagnie hanno massacrato i suoi testi meravigliosi, dove vive la tradizione dei boulevardier parigini, dialogatori imbattibili, i migliori di tutti. Lei ha lavorato con i massimi attori e registi. Chi le piace ricordare? Il più grande affetto è per Vittorio De Sica. Come compagni di lavoro, Paolo Stoppa è stato un signore, semplice e glorioso, in una tournée che è durata 2 anni. Con Alberto Sordi ho girato 7 film. Le battute nascevano insieme, inventando, anche sul momento. Alberto era formidabile come artista e come collega. Non avevi mai l'impressione che pensasse solo a se stesso. Siamo seduti in salotto. Alle pareti 50 locandine di opere liriche, molte col suo nome come regista. E pile di DVD, sempre d'opera. Me li regala Elio Pandolfi. È un maniaco dell'opera come me. La lirica, assieme al teatro, è la mia grande passione. Nessun titolo preferito, perché ho amato tutte le opere che ho messo in scena. Se devo scegliere, credo che il Macbeth e il Simon Boccanegra di Verdi con la regia di Giorgio Strehler siano insuperabili. Strehler più di Visconti? Luchino era elegantissimo. Strehler inventava di più. Locandine, DVD e una libreria colma. Ma se cerca il bestseller o il Vian de Paretre, lo Strega, il Campiello o il Viareggio, qui non li trova. I libri recenti sono quelli che mi mandano gli amici, Arbasino prima di tutti, sempre con dedica. Un consiglio per invecchiare bene? Evitare la noia. Gli uomini ignoranti mi annoiano, i finto colti ancora di più. E cercare di capire dove sta la verità di un fatto. Spesso ti scorre vicino e neppure te ne accorgi. La verità vista da una mente ironica e magari un po' lungimirante è qualcosa di meraviglioso. Legge ancora molto? Che domanda! Ai libri ho sempre chiesto quel che non mi può dare la realtà che mi circonda. Leggo le cose che non posso più vivere. Sono contenta di aver letto molto e di potermene fregare dell'attualità. La vita la conosco, le tragedie, le gioie, e poi io rido soltanto leggendo. Il divertimento che provo leggendo un testo teatrale a letto la sera, mi addormento molto tardi, è unico. A teatro con certi attori mi capita di ridere una volta all'anno. Guardando la televisione, mai. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Sandro Cappelletto, I miei 90 anni da signorina snob, intervista a Franca Valeri dalla Stampa del 19 luglio. Se le profondità marine sembrano un posto silenzioso, dalla Nuova Zelanda consigliano di ascoltare meglio. I pesci si parlano, esprimono desideri, comunicano pericolo, addirittura si intercettano tra loro. Il team di biologi dell'Auckland University, guidata da Shariman Ghazali, li ha origliati per mesi, usando minuscoli microfoni, e ne ha studiato i comportamenti in relazione agli ascolti. Tutti i pesci possono ascoltare, ma non tutti possono emettere suoni, ha spiegato Ghazali presentando la ricerca. Quelli che ci riescono contraggono la vescica natatoria per produrre impercettibili grugniti, ringhi, pigolii e scoppi. Le più loquaci sembrano essere le gallinelle di mare, mentre i merluzzi diventano molto rumorosi durante la riproduzione per sincronizzare la deposizione delle uova. Per prepararsi meglio alla caccia e all'inseguimento, alcuni predatori sono capaci di captare i suoni delle prede che si comunicano tra loro il pericolo. Nessuna speranza, invece, per i pesci rossi. Hanno un buon udito, ma sono del tutto incapaci di emettere suoni. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Ferdinando Cotugno, Ma come parlano i pesci, da Vanity Fair, numero 29 del 28 luglio.